oggi finalmente un passo avanti è stato fatto. Ieri è arrivato il decreto che aspettavamo, un decreto molto articolato. Il primo segnale è certamente quello positivo, che il governo è uscito dall'immobilismo. Bene l'indicazione di Figliuolo, dico l'indicazione perché non è ancora stato nominato, ancorché sia già operativo, abbia già incontrato il presidente. Si è stata definita la struttura commissariale dentro il decreto e anche i fondi, che sono però chiaramente insufficienti rispetto ai danni dell'alluvione. C'è qualche informazione che non ci torna. Figliuolo verrà nel decreto indicato commissario per la ricostruzione fino a giugno prossimo, quindi per 11 mesi, mentre lo stanziamento dei fondi è per i 3 anni. Ci viene già un dubbio su come abbiano intenzione di gestire, è un dato che non ci tranquillizza. Sono diversi altri gli aspetti che ci preoccupano un po'. Le risorse, come vi dicevo prima, le risorse sono la prima preoccupazione, perché le risorse stanziate sono 2,5 miliardi per 3 anni a fronte degli 8,8 miliardi di danni stimati. Di danni stimati in un elenco assolutamente trasparente che è stato stilato dalla Protezione Civile, consegnato al Ministero, inattaccabile rispetto ai danni che ci sono stati e ai bisogni che ci sono. 2,5 miliardi per un intero triennio a fronte di 8,8 miliardi di danni stimati è certamente un dato che ci preoccupa. Quindi lo segnaliamo, abbiamo intenzione su questo, proprio per approfondire, per chiarire, per il primo passaggio che faremo è quello di convocare il commissario Figliuolo in commissione affinché venga a riferire, in modo che direttamente i gruppi assembleari con lui possano costruire un rapporto e, mi pare dire, possiamo anche noi condividere una modalità di lavoro rispetto alla ricostruzione, ma soprattutto per dare una risposta immediata ai bisogni che gli enti locali, i privati e le aziende con le comunità hanno, soprattutto per realizzare le opere urgenti che sono assolutamente indispensabili prima dell'autunno. Adesso siamo a luglio, ma l'autunno arriva in fretta e ci sono delle opere da fare urgentemente per evitare che i territori vengano messi in crisi ulteriormente. Abbiamo anche fatto già un ragionamento, e c'è la convinzione da parte di tutti i colleghi di star vicino ai territori e di fare attraverso le commissioni. Abbiamo la ferma intenzione di portare le commissioni sui territori, perché ci sono situazioni che, se non vengono viste direttamente, probabilmente danno una percezione diversa. Il dramma che sta vivendo la montagna, piuttosto che i territori che sono senza collegamenti, tutta l'attività da fare per ripristinare i collegamenti e la mobilità, piuttosto che i territori franati, un segnale lo vogliamo dare anche noi, innanzitutto di capire le reali necessità, i bisogni e i problemi di tutti, dalle imprese ai privati cittadini che ancora non sono rientrati in casa, alle difficoltà che sta vivendo l'intero sistema romagnolo, rispetto al quale dobbiamo dare risposte. L'ultimo punto sul quale noi inizieremo una battaglia convinta e ferma, come per le risorse destinate assolutamente insufficienti, è quella che riguarda gli indennizzi. Indennizzi ai privati e alle aziende al 100% e con l'anticipo subito, nei tempi più rapidi possibili, alle aziende, soprattutto per ripartire. Le questioni sono convocazione di Figliuolo in commissione, condivisione con lui di un percorso che implementi le risorse, perché quelle stanziate sono insufficienti, e obiettivo indennizzi e anticipi alle aziende. Su questi temi, così come gli altri che il territorio ci chiede, noi abbiamo intenzione di avere a riferimento Figliuolo e la presidente Meloni. Tutti gli altri, che siano i parlamentari, che siano i sottosegretari, che siano i ministri, che siano i colleghi delle minoranze, noi non ci interessano, faranno il loro mestiere, faranno quello che vogliono. Per noi quello che conta adesso è il rapporto diretto con il commissario e con il presidente Meloni.